Ecco, noi Alessandro Agostinelli, direttore del Festival del Viaggio, alla 13ª edizione con 3 tappe a Livorno il 25 maggio e poi Firenze e Palermo fino al 16 giugno. Alessandro, ben trovato. Ciao, salve. Allora, per chi non conoscesse, raccontiamo intanto cos'è il Festival del Viaggio. Il Festival del Viaggio è il primo festival italiano dedicato a chi ama viaggiare. Ormai siamo partiti 14 anni fa, con tanto entusiasmo perché allora non c'era appunto un festival che si occupasse di un tema così importante. Poi nel tempo sono nati anche altri epigoni dedicati alla letteratura di viaggio, ai taccuini di viaggio, al cinema. Il nostro, diciamo, è un festival culturale che ormai si svolge tutti gli anni a Firenze e a Palermo nella prima parte del mese di giugno. Questa 13ª edizione come sarà strutturata? La 13ª edizione è strutturata in modo tale che si possa, diciamo, raccontare molte cose riguardo a questo tema. L'anteprima è a Livorno e lì abbiamo 3 scrittori. Uno è Niccolò Rinaldi che racconta il giro del mondo in 50 barbieri. È un libro di stampa alternativa fantastico, dove appunto si raccontano i 5 continenti e altrettanti viaggi in molte parti del globo, con questi barbieri, parrucchieri, che insomma in varie parti del mondo fanno i capelli e la barba in maniera totalmente diversa. Poi c'è Paolo Ciampi con Il sogno delle mappe, quindi un altro modo di guardare al mondo e impossessarsi appunto pur momentaneamente del globo attraverso l'immaginazione grafica. E per finire, sempre il 25 maggio a Livorno, Isidoro Meli, che è uno scrittore siciliano che ha scritto un romanzo che si intitola Tia e la guerra dei gobbi. In realtà è la storia di un rapimento non riuscito ad Anita Garibaldi, una roba un po' in stile Armata Brancaleone. Questo, diciamo, è l'anteprima con 3 libri per dare il senso anche del tema, diciamo, dei racconti di viaggio, sia quelli saggistici, sia quelli romanzati e di fiction. Successivamente, il 1º giugno, si inaugura una mostra a Firenze, che è l'apertura appunto del Festival Fiorentino. La mostra è Luci e ombre armene ed è dedicata in un bianco e nero assoluto del fotografo Andrea Olivi, che è stato anche collaboratore di Andrei Tarkovsky, appunto su un popolo antichissimo e su luoghi sacri dove si è costituita un'identità armena molto importante, diciamo, un bellissimo viaggio fotografico Sì. Poi Armenia. Palermo, che succederà? Beh, a Palermo abbiamo, come al solito, alcune iniziative, diciamo, legate alla fotografia, perché quest'anno c'è appunto tutta una parte sul Cuba. E quindi a Villa Niscemi c'è questa ultima Cuba, il viaggio nell'isola della rivoluzione di Gian Giorgio Perricone, e poi alcune iniziative come per esempio la visita guidata con l'introduzione storica al sito archeologico al Museo di Solunto. Quindi torniamo a fare a Palermo anche un po' di attività di turismo esperienziale, come si dice oggi, mentre a Firenze abbiamo alcune iniziative veramente importanti. Quest'anno è l'anno del cibo italiano, questo è stato decretato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e noi cerchiamo di omaggiare, diciamo, questo tema con una conferenza sul cibo nell'arte, molto interessante. Si attraversa appunto tutta l'arte, dalle origini fino all'arte contemporanea, Francigena, una a San Miniato e una a Siena, che si concludono appunto con un pranzo, uno alla retrobottega del Falaschi a San Miniato e una al ristorante Pagoga a Siena. Sono due tipiche trattorie della vetrina toscana, e cioè del cibo tipico della Toscana. Mentre altre due cose di turismo esperienziale quest'anno a Firenze: una è la tradizionale scalzeggiata, quindi la passeggiata a piedi alle cascine, a piedi nudi alle cascine, aperta anche a turisti di lingua inglese, e ci siamo inventati una roba che viene direttamente dal cinema, cioè dall'ultimo film di Alejandro Jodorowsky. Abbiamo ripreso quest'idea e facciamo la passeggiata Jodorowsky, una camminata urbana senza mai curvare all'alba di sabato 9 giugno alle ore 6 per 22 persone e basta, perché a queste persone diamo a ciascuna una carta dei 22 arcani maggiori dei tarocchi, e quindi loro da quel momento interpreteranno quella carta in fila indiana dalla Basilica di San Lorenzo, attraverseranno tutto il centro di Firenze fino a Ponte Vecchio senza mai curvare, andando sempre dritti in fila indiana dalle 6 di mattina. Insomma, sarà un'esperienza che tenterà di disseminare il centro storico di Firenze, azioni di bellezza. Alessandro, in chiusura, per tutti i riferimenti ci dai gli spazi web? Certo, tutto quanto aggiornatissimo, anche con la possibilità di prenotare, è su festivaldelviaggio.it. Perfetto. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie, un abbraccio, ciao.